Sede a 3 gradi. Ma mi spieghi perché sei sempre solo su 10 che non c'è nessuno? Perché non vai in PMR a parlare al 23? Non mi sente nessuno, capito? Beh, diciamo che in città dovrebbero sentirti, aspetta che c'è un rientro qua. Ecco. Sì, ho detto, in città ti sentono. Sì, adesso non ti sentono alla croce, a notte, e ci mancherebbe. Pur sempre un'antenna esterna per la città, non deve dare problemi la città, certo se vai fuori va bene. E quindi cosa mi racconti, sei guarito o no? No, sono peggio di prima, però non mi sentono, non ci arrivo più, capito, in quelle frequenze, forse sono diventati sordi loro. Ma dove non ti sentono più? In l'EPD o PMR? In PMR. Bisogna pompare i watt, già lo sai, no? Più watt, più ti ascoltano. E io certe volte, quando non mi sentono, con 4, già lo sai, no? Meglio non parlarne qua. Infatti non ne parlo neanche. Se non mi sentono con 25 watt vuol dire che non mi vogliono sentire, compreso Luca Del Monte, ma già lo trovo di persona a lui. Insomma, come ti più vedi in infiltrata? Alla fine gli apro la macchinetta. Capito, alla fine apro la macchinetta e vedrai che molta gente scende più mi ti consigli. Magari, cazzo, prenderò la moletta e taglierò l'antenna, però la faccia gliela rompo a un po' di gente, perché sappino che non temo a nessuno. Lasciami guarire, che hanno già fuochi di culo, cazzo, di gli rugabba in resto, a un po' di niente, chi si crede un bel forse. Fai da bravo, tu hai avuto qualcosa al cuore, quindi devi fare una vita mite e senza troppe emozioni. Ma io emozioni non ne ho, perché io quando picchio mica madilo, io picchio con metodo. Oh, in Natalì, dai, che se trovi il bando giovane ti tira due cartoni e ti colica. Attà, così. Ma deve avere il tempo di darmi due cartoni. Nel mio paese dicono chi parte per prima ha picchiato per tre. Già ne so qualcosa io, sono quel delinquente. Mi era partito lì, a Sacro Cuore. Era una greppa nota di delinquenti che rompevano le scatole a tutti. In più io avevo fregato la ragazza, uno di questi, capito? E quindi tutta roba di donne era. E è successo anche a me quello lì, che quelli di via Valdeda ci volevano picchiare. Cazzo, siamo andati in Chivia e ti vorrien aggredì, alla fine ne farà Dudu Trumonti però. Ne farà, da ne bigliato Mazzussa. Ma quanti guanti stai usando? Perché sei fuori scala, Attenzione a non aver abusato troppo i guanti. No, sono 5 watt. Ah, 5 watt sono. Chi è che chiama? Avanti. Ehi, ciao, capri due. Ho provato a fare bip. È uscito a Pizzu, Natalino. Qualcuno ancora c'è, dai. Poi, vabbè, io... Cioè, abbiamo sempre casini in casa, per queste cose da fare. Ne ho le scatole piene di essere... di stare... recluso a casa, tutto il giorno recluso a casa. Basta. Le cose principali sono state fatte, allora basta. mettendo roba, insomma stiamo migliorando la casa così buttando, però dobbiamo fare anche una buttata a coso, come si chiama, l'autoparco, però che non continui, perché sennò mi rompo le palle di stare sempre. Poi gli sforzi che fai, chi dice, mi va bene a dire, certo se aspetto a te, allora arrangiati, capito? Diminuisce sempre mia zia quando la inizia a fare la roba, cioè a dire beh allora fai tutto tu, visto che sei forte tu, sai tutto tu, arrangiati se lo vuoi fare, se no andati. Bugiardo, stavi parlando nel canale 23? No, ma oggi sono a riposo. Stavi parlando nel canale 23, non dire balle, io sono in ascolto qua e Bippi non li hai fatto. Io adesso l'ho fatto, è uscito a Pisio Natalino. Sì, ma prima stavi parlando nel canale 23, traditore, vai, vai. Io posso parlare in tutti i canali, non ho catene, capito? Io devo essere imparziale, no come qualcuno che non va da nessuna parte, sempre qui, ah? O Natalino? E vai, abusivo. Natalino non ci va sul 23 perché gli è piazzata l'antenna tua, allora rimane sempre solo qui, capito? Non va a parlare con gli altri, ma lui, Natalino non c'ha nulla con gli altri. Lui può andare a parlare al 23, al PNR, so che non lo fa, non capisco perché. Io sento, no? Io c'ero l'altro giorno sul canale 23 e non devo dare conto a nessuno, stavo parlando con Giulio, con Bacchisio, quindi non ho da chi mi può dire niente, è che io sono qua e rimango qua. Va bene, continuate, sto facendo cosa, ciao anche a Capri e ciao anche a Natalino, ciao. Io non devo dare niente a nessuno, vado dove mi piace e parlo con chi mi piace. Dai, riprendi Marco e sto facendo cosa. Eia, anch'io sono, devo rimanere neutrale. Eia, ma come mai se non chiamo io non chiama nessuno? Senti, tutti all'ascolto, scommetto. Natalino c'era all'ascolto. Guarda, lo stesso, se non fate due non entra nessuno, qua è possibile. Devo essere il primo a chiamare. Io sono tutta la sera in ascolto, non ho sentito alcun cane. E ti ripeto, sto facendo cose al computer e quindi non posso chiacchierare. Però non ho sentito nessuno. Stavo ascoltando, perché io sto sempre lì ad ascoltare, giusto per tenere le radio accese, visto che qua non parla nessuno, ero sul 23 ascoltando e ho sentito a te che sei entrato a salutare. E mi sono spostato al 10. Capito? Quando tu ti sei spostato al 10, io mi sono spostato al 10. Va bene, riprendi Natalì, a futti dinni. Io già me ne frego già. Lì con un ciafuato sul ruotare ci vedrai, o ridorra l'udito, o gli sparisce del tutto. Speriamo che le sparisca del tutto. Tanto che si infame mi la baga, amico, un cracciappo, cazzo, mi riesce a dare tu. Io dico, cazzo, ti ricordo le bugne a bocca, cazzo, tu la questi figli in terra. E vi lo a vedi. Unendo i sesania con tutti, cazzo, ma ti pare, cazzo, che io entro, già me non mi intendini, ma io, cazzo, qua, ma chi? No, si dice il peccato, ma il peccatore, tu sei sempre quello che vuoi sapere tutto, eia, così è, e lo sai cosa ha fatto, quindi... Perciò è nato così e bisogna tenerlo così, basta eliminarlo quanto Giovatti e si è a posto. Dai, sto facendo cosa dopo, vai Capri. Eia, ho Natale, diciamo, portati ormai, tutti hanno buttati così, senza caricarli, adesso ho messo in carica, pao, perché se poi si scarica la batteria litio, guai. Se arriva a 0 volte è rovinata la batteria e poi sto ricaricando il digitale pure, che non abbiamo più usato. Peggio per te, io me la volevo comprare, capito? Almeno me ne escono dal culo tutti quanti e parlo come mi pare, mi piace, e loro non mi possono sentire perché è crepito tutto. Ma come fai a comprarti il digitale se non c'hai soldi? Tu non ti preoccupare, pure adesso vado e me lo compro e poi te lo posso vedere se non c'ho i soldi. Ma sai cos'è? Qua configurato, è un casino, mi. io non sapevo niente del digitale, ce l'ha configurato il negoziante. Siccome i negozianti sono delle meretrici, no? Tu le paghi e fanno quello che vuoi. E ho detto, ma lo configuri in modo da parlare da A a B. E basta, e così ha fatto. A me me l'ha configurato Gianfranco. Lo so, Gianfranco lo sa. Lo sa, ne sono bene, lui anzi è un po' l'artefice della diffusione digitale. Io non lo saprei fare, no, perché vabbè, la parte analogica è facile, scusate, non voglio parlare male, è facile, ma quando vai a vedere quelle voci là, per me è arabo, non è roba che tratto. A me me l'ha configurato lui e non glielo lascio, non me l'ha tenuta. Vedi, Capri, dai, già sono qua io e sto facendo cosa, però già riprendo dopo. Per carità, ehi, guarda che la Maddalena era lo stesso, quando mamma ha insegnato la Maddalena, no, tra Paolo e Maddalena c'era un silenzio, non parlava nessuno, come ha chiamato mamma, piano piano sono fiorati tutti, si sono formate le greffe, si sono formate anche come dire, le controgreffe, cioè gente che non poteva vedere, tipo Paolo non poteva vedere Maddalena, viceversa, c'erano importantisti che vivevano di portante, che non potendo fare nessun discorso valido, no? Allora mettevo portante a tutti, capito? E una cionfrancheria era, per carità. Vabbè, comunque si è svegliato un po' in quell'anno, Palau e Maddalena, la 27 di Palau e Maddalena. Ehi, ehi, purtroppo dovunque ci sono le fazioni. Comunque Natalino aveva parlato prima assieme a Claudio. Natalino, già dovevi dire? Non me ne ricordo più. Ui, ui, c'è gente sull'8, sul 7 PMR. Aspetta, è abbasso. Ui, ui, a Concisemo. E infatti a Concisemo. Cazzo, va con a gana di bisciarsi sotto come te ne vedi. E chi sei, maciste? Ah. Non sarò maciste, però il tanto mio me l'ho sempre fatto. Ho preso quella pistola svizzera, due fucilate negli occhi di Capsicum, che così fatti? E io ho la Glock 17, non va bene lo stesso. Quella va anche meglio. No, vabbè, sto scherzando, non l'ho presa. Costa troppo, non è uno sproposito, costa. È un bello oggetto, ma i prezzi li dovevano fare europei, non svizzeri. Gli svizzeri sono cari, in tutto sono cari. Oh, io. Vabbè. Notizie di Pomponio, oh, sapete se è entrato, se sta entrando. In PMR lo sentivo. Oh, Antonello, Pomponio, ci sei, QTC. Niente, vabbè. E poi casino in famiglia, era i ferri corti con la sorella mia, è andata lì. Era i ferri corti con la sorella. Purtroppo, quando non si va d'accordo, venuta la base. Io lo so, poi basta essere donna la sorella, ecco che tutti come donne oggi vuoi parlare. A malapena ho sentito la voce. No, comunque, com'è che non riesci a guarire? Ma cosa stai prendendo? Che tipo di farmaci stai prendendo? Ho smesso di prendere i farmaci che mi stavano intossicando il sangue. Figurati, non sto prendendo più nulla. Caramelle Golia e boh, per la gola. Non posso prendere più nulla, mi è uscito uno sfogo. Tu devi venire dai farmaci. Un rash cutaneo? E allora? Aspita l'anima. E vabbè, passerà. Io ho paura a prendermela, questa... Mamma mia, di questa cosa qui ho paura a prenderla. Infatti quando vado... temo a essere nei luoghi affollatemi. O mi metto le mascherine come fanno i giapponesi. loro lo fanno me e nessuno lì dice niente, non niente, e molti la usano, qua se ti metti la mascherina ti pigliano per hai 10 atto, capito? È brutta. Adesso non so se mi senti perché dici un po'. Non riesco a parlare proprio. Eia. E vabbè, riposa la gola allora. Claudio, ci sei ancora? Stai facendo roba? Sì, vi sto ascoltando, sto facendo cose, dai. Ma poi si era chiarita quella cosa di quella scheda, che non era altro che una assegnazione frequenze di vari servizi. E se ne era nata una questione di tatto. No, ma non frega niente, io ho capito quello che abbiamo mandato e basta, si chiusa lì, no, non mi interessa. No, non ho niente da aggiungere, ok? Dai, riprendete, sto facendo cose. Come sto uscendo col DAC, bene? Bello, bello. Quindi fatelo dire da Capri. Capri? No, quello no. Cosa mi devo guardare tipo quelli che portano i malati di Ebola? Ah, la tuta, le mascherine, le maschere a gas. Ah, è nell'aria, quindi ho visi con la maschera, con la mascherina sul viso, finché non passa, ma prima o poi becca, lo so, prima o poi becca. Spero che non dia complicazioni polmonarie o roba del genere, ma tocchiamo ferro. Una volta ho fatto una battuta, una compagna di, non so, scuola, cos'era, mi ha detto, ma da dove arrivano questi virus? Da dove, come si formano? Da dove arrivano? E io ho detto, dalle compagnie farmaceutiche. Ho detto, li fanno i virus per vendere i farmaci antivirali, capito? Per vendere medicine. Magari non ne ballano. Eia, è vero. Ce ne sono sempre puntuali, non è che manca, sempre ogni stagione, ogni cosa arriva l'influenza puntuale. Sembra proprio che lo facciano in laboratorio di virus e poi lo liberano, così poi vendono farmaci per curare, capito? E non è scherzo mi questo. Era buono già ipotizzato, non so chi. Mamma mia. Natalì, ma già non stai fumando in questo periodo? Ma cosa fumando? Non sto né mangiando né nulla. Ho sviluppato un'ipersensibilità ai sapori e non posso mangiare, non posso dormire. Un casino. Un casino, sì. No, se tu riuscissi a... Quando guarissi, se tu riuscissi a eliminare il fumo, sarebbe una cosa buona. Il fumo fa male, riempie i polmoni di schifezze, li rende più soggetti alle infezioni, proprio perché li debilita, li rovina. Cerca di smettere, pigliati la sigaretta elettronica, non lo so, oppure ci sono le compresse di adesive di nicotina, che almeno ti danno il supporto di nicotina, ma almeno non fuma uno, capito? Fino a smettere. Io già non fumo, mi Capri, io non fumo. Non fumo, assolutamente. E quando fumavo, fumavo con la bocca, senza aspirare nei polmoni. Nei polmoni non ci voglio niente, solo aria. Ma sai qual è la giustificazione dei fumatori? Qual è? Dice, tanto c'è gente che non ha mai fumato e si è preso il cancro lo stesso. Quindi tanto vale fumare, secondo la testa loro, no? Vabbè. Vabbè, peggio per loro. Lo so, si attacca ai vestiti l'odore del fumo, poi mamma mia sei pipa, lo sigaro, non te ne dico niente, mamma mia, vabbè, ok, allora vediamo chi è troppa, Natalino non ce la sente, Claudio sta facendo sempre roba, allora, chiudiamo? Poi cambia che ti rilampa che baracchini e poi fa passaggi falconiani, non sta più uscendo Capri, ci sono dei momenti che stai molti secondi senza uscire di radio. Eia, guarda, se compri lo spray da Fusaro per contatti, prende il Dreigot secco, si chiama Dreigot secco, o comunque chiedi lo spray per contatti secco, che c'è l'altro che rimane umido, umidiccio, fa una patina protettiva, quello va meglio per le antenne di acciaio inox o alluminio, capito? Gli dà una, gli rimane una bella patina che lo protegge dalla, dall'umidità. Vabbè, purtroppo ci hanno poca roba, più è cara. Chi è che vuole entrare su 10? Sentivo un tocchettino sotto di tanto. Valerio, ci sei? Ah, Valerio, ci sei, eia. Eia, eia, ogni volta, mamma mia. Eia, langue, la frequenza langue. Non ci posso fare niente, dai. Tutti, tutti i volti, tutti sciancati. Oi, oi. Vabbè, io depresso, facciamo, chiudiamo il quadretto, dai. Io il solito Superstar 3009 omologato, appigliata in curumi. E vedo che non c'è il tanto, dai. Ci sentiamo. C'è anche Valerio, Nattarino, Claudio. Ci sentiamo nelle migliori occasioni, dai. Ciao a tutti, ciao. Aspetta. Ciao, ciao, ciao. Marco. Eia. Mi serve una torcia elettrica perché ho perso la mia e non so dove l'ho messa. Per vedere il cherosene, mi livello del cherosene. Sono andato da Bricomene e non ne aveva. Come Bricomene? È pieno di torce elettriche. Almeno che ricordavo, piccole, grandi, medie. Ma cosa vuoi che te la porti io la torcia elettrica, non ho capito? No, a sapere dove le posso trovare. Sono uscito stamattina, mi ha lavato la macchina. Mi ho messo il gasolio, poi sono andato a, a Bricomene, non ce ne ha più. Quelle che c'erano erano torce del cazzo. Ma torce elettriche, pile che illuminano sarebbe? Non torce nel senso le pile, no, le batterie. No, quelle che illuminano. Sì, Natali, io ne vedo dappertutto, dovunque vada, ma varie misure, grandi, piccole, medie, bricco, lo stesso ne ha un sacco, una sporta. Caspita, non trovare una torcia. Oh. Non ne ha più, Bricomè, non ne ha più. Quelle che c'ha non servono a un tubo. Eia, mamma mia, è esasperante questo alimentatore, abba. Adesso devo toccare il ventole, poi da sbattere a terra, aspetta. Si è quasi calmato lì. Deve essere la ventola immurinata. Grasso siliconico? Vabbè, posso anche staccargliela la ventola, perché qua non scalda, anche mettendo carico, anche mettendo... Ricordo, sono arrivato a... cos'è che avevo attaccato? 16, oltre 16 ampere, quasi 18-20 e non scaldava, non scalda questo alimentatore. Non scalda, la ventola l'abbiamo messa così per convenzione, non lo so. Ecco. Ciao Capri. Ben sentito, ci risentiamo, tocca quei microfoni però, è sempre un po' così così, avanti da Giubrecco. Ciao Marco, ciao Natalino, e ciao anche a Capri che sta andando via, ci sentiamo, sono stato troppo tardi, alla prossima. Ciao Natalino, vabbè, tutto bene? Fra, tutto male, non riesco a parlare. Cavolo, ma come la cogisti? Per la miseriaccia, E cosa vuoi? Si mi hanno intossicato burrusanguri, ma i midizini. Non so che biglietti più nuda, ma cosa... Non puoi più né mangiare, né dormire, qua, un casino. Perché avevo... sentivo gli odori da lontano. Sentivo. Ti sto dicendo una cosa, ed è tutto i farmaci, mi. Più mi uscito uno sfogo, cazzo, sul labbro superiore. Cutaneo, guarda, una cosa mai vista ne avevo. Cavolo, ti ha preso pesante questa volta, vabbè, ecco cosa ci vogliamo fare, la vita com'è, no? Va bene, ciao Marco, buonasera. ciao, buonasera, per modo di dire, oggi è giornata nera, fumata nera oggi, dai. Però, tiriamo avanti. Sì, piano piano, Marco. Le fumate poi, le fumate diventeranno anche bianche, diventeranno. Io lì, sono stato poco fa e dopo ne vorrei andare al lavoro, 2 minuti questa settimana. Ehi, ehi. Fortunatamente le fottute feste ci hanno passate, il diavolo se le porti tutte. Oh, feste, ma quale feste? Passate quasi lavorando, quasi tutte lavorando. Feste sopra. Vabbè, purtroppo come succedeva a Claudio che gli davano i turni a Natale, a Capodanno, quella roba lì. Purtroppo vogliono fare. Vabbè, non ti perdi nulla a me alla fine. Vabbè, se c'hai famiglia e bambini sì. Però io già non mi sono perso niente. Altre feste. Sì, vabbè. Bene, bene. Avanti. E se vado avanti mi tiro la testa al monitor. No, e non così. Non basta. E voglia, finimennita. Che non c'ho più nulla, mi si può dire. Solo che non riesco a parlare. Sono la prima di Natale così in me. Ecco. E non mi conosco, tu visto vai? Oui, non ho visto a nessuno. Perché non stavo uscendo, cosa vedi? Non ho sentito più né a Gianni, nulla. Ecco. Marco, buono, deve essere se è rinchiuso, o è per il bisogno da tempo indietro. Poveraccio. Anche lui c'ha gli acciacchi suoi, belli grossi. Anche Marco. E vabbè, faccio per qua. Arrivo giù. E niente, avanti Marco. Ehi, c'è anche Claudio, È entrato, avanti Claudio. Sto facendo cosa, vi ho letto, già vi sto ascoltando, ciao Fra. Ciao Claudio, ben ascoltato. Io vi direi di appuntare lo bucciuccio. No, fra un po' vado, adesso mi preparo, poi vado Fra. Ecco, fra me io altre 5 minuti e poi vado a mangiare e mi do capire salute e grazie. Mi hanno incastrato ieri notte e stanotte. Vabbè, ieri hai fatto un cambio turno, mi hai detto oggi magari il turno tuo. Infatti. Vabbè, non più pesanti. E una volta che non le facevo. Toste sono, una volta mi capitavano anche 3 di fila a me fra, sono toste. Dure sono, poi riposavo 2 giorni, però sono dure da fare le notti 3 consecutive. 2 già sono pesanti, 3 sono truppi. Vabbè. Va bene, dai, vi ascolto ancora un po', poi vado a portare il cane. Se ci siete ci sentiamo dopo. Riprendi Marco. Veglia, io stavo valutando come mai qua. Vabbè, noi abbiamo mangiato prima oggi, abbiamo pranzato a 2:10, il kebab abbiamo pigliato fuori, ecco perché ho detto come mai non la divertiamo, l'ho già mangiato, e vabbè alle 9 ceno allora, orario normale, e oggi hanno fatto incazzare mamma, io... Ho detto guarda che mi devo vedere roba da macchina, lei si piglia 2 cosette, paga e se ne va in macchina, irreperibile perché non c'ha il cellulare, l'ha perso, non so dove cavolo ce l'ha, io come un idiota devo comprare roba mia, roba per la macchina che non dovrei pagare perché la macchina non è mia, avevo i soldi che non bastavano, quella c'era andata in macchina, ho voluto ammalare tutto, ma ne sono sceso giù incazzato nero, infatti poi abbiamo battuto il gatto e poi alla fine ci siamo calmati un po', però se si esce assieme si sta assieme, non che uno si paga, si inanda, io come ti ricordo cercando lei, non risponde al telefono, è irraggiungibile, o questo telefono ce l'ha, ho spento e è irraggiungibile. Ho perso in casa, capito? Non va bene così. Poi si deve comprare un caricabatterie perché l'ha perso. C'avevo anche quello nel tra la roba da prendere. E lì se n'era andata per il posso dirlo, fa i piatti suoi. Certo. Quello, Marco, è un difetto di tutte le donne, che non se lo portano mai appresso e non cercano di imboccarlo sempre. Certo. Comunque, ho sentito che hai migliorato allora sul fatto della, del pranzo e della cena. Solo oggi perché siamo andati allo sciame. Però questo è un po' il piccio di mamma. Parte, mi guarda, piglia, parte la cassa. Io come ti un gigione lì aspettando. Anche perché, ripeto, non mi bastavano i soldi. Io mi sono portato 15, potevo portarmi un bel e avrei fatto tutto io. Dovevo pigliare le castagne, mi sono passate pure di mente proprio perché era sparita. Vabbè. La prossima volta ti ammanetto al mio polso, tu dove sono io stai, te lo dico io, mi proprio senza scherzi, mi porto le manette, la manetta al mio polso, tu sai dove sono io, non ti devi muovere, così facciamo la spesa assieme, scegliamo cosa assieme, decidiamo assieme cosa prendere e cosa no, cosa pagare in due, cosa pagare di propria tasca, capito? Se no fai una cosa, gli prendi il carrello che ci stendi sopra e lui ci stingi, così non scappa. Sì. Vabbè, quindi ero buriato, la roba che devo prendere l'ho mollata lì, dovevo andare da Lidl. Mi avevo le palle girate, me ne sono tornato a casa, ho detto no, da Lidl non ci andiamo. Poi però, che vuoi fare? Mamma è anziana. Quasi stavo piangendo, allora abbiamo fatto pace, però gli ho detto quando siamo assieme, non è che facciamo le cose assieme, non si fa così, dai. Perché mamma tende al pianto quando sono isterico, quando la prendo a voce e cose, poi mi viene il pianto, allora devo, come dire, com'è che si dice? Pianare tutto, dai. Vabbè, ma non va bene però prendere a voce un'anziana. Ti aspettavo, Marco, anche tu. Perché qua ti stai rifacendo di quando eri piccolo che ti sgridavo, ma non va bene. Le anziane, ma adesso tu ricordati che noi ritorniamo, cioè nasciamo bambini e poi ritorniamo bambini a vecchiaia, ritorniamo, con ciò c'è poco da tirare avanti. Ok, va bene, dai, avanti Natali. Dai, non ho tanta voglia di parlare, no? Che sono messo male. Ok, dai, ci sentiamo. Anzi no, io invece mollo perché devo andare a mangiare. Ce la riascoltiamo, vai. Ciao Natali, buona guarigione Natali, tanti auguri. Ciao Marco, e non sgridare mai le più anziane, le anziane. Che prima quella lì ha lavorato. Capito? Va bene, ci sentiamo. Ciao anche a Claudio se è l'ascolto. Avanti a te Marco. Ma sta andando tutti via, va bene, Natalino non se la sente, ciao Natalino. Ma sai cos'è? Ce ne sta facendo passare tutti i colori. Non posso scendere nei dettagli però, di tutti i colori. E quindi quando sbotti, Va bene, ma lo chiudo qua il discorso, dai. Va bene, ciao Natalino, dai, riposati, riposa la gola soprattutto. Cosa si può fare per scaldare la gola? Non lo so, latte molto caldo con miele, boh, non lo so cosa si può prendere. Fatti un tè, un bel tè bollente. Ciao Marco, alle prossime. Bollente, così si ustiona la gola e non fa vedere più, deludito. No, bollente nel senso che sia ben caldo, là. Sì, già ho capito. Dovrei vedere che la sta bollente, così si brucia le corde vocali e la fa vedere. Va bene, ma state andando tutti via, allora ci vediamo tutti, dai. Tanto vedo, quello è Morindi, quello ha sempre da fare. Va fare il vetro, Satana. Ma non male che ce la prende a ridere Natalino. E secondo te cosa deve fare? Piangere? C'è poco da piangere. Le lacrime le ho già esaurite, quindi cosa? Non c'è niente né da piangere, rimane solo da farcene una risata per come stiamo andando in Italia. E questo è niente, tutto andrà sempre peggio in Italia, chissà come fileremo, ci coricheranno nel letto uno di questi facciniettimi, ci obbligheranno a ospitarli nella nostra casa, magari nel nostro letto. Sì, sì. Siccome hanno chiuso il poligono, già faccio tirare segno in altro modo. Sì, o che sia una profuga, amiche, le faccio cedere a Tana di Grillo, come dice Graziano. Vabbè, ciao a tutti, dai, ciao, ciao, ciao. Ci sentiamo a migliori occasioni, ciao.